sono un giornalista che vale $250 la settimana. So manovrare notizie grosse e piccole. Se notizie non ci sono, so lavorare di fantasia. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo elettori il bagno alla turca. Tu grillo parla, che parla la gente, ma chi t'ha invitato, ma chi t'ha pregato, sei un profeta di varietà. La prossima fine di questo anno 2014 e l'imminente conclusione del mio mandato presidenziale inevitabilmente ci portano a svolgere alcune considerazioni sul periodo complesso e travagliato. Soltanto ad un patto che spacchiamo tutto, per noi la festa è questa qua. Napolitano non si dovrebbe dimettere, dovrebbe costituirsi. Si sono che ci siamo così. Noi perché abbiamo vinto le elezioni, noi nel 2009 abbiamo vinto col 25%, eravamo il primo movimento politico d'Italia. Perché non ci hanno dato l'incarico? Non ho dubbi che andremo a governare questo paese, non ho dubbi se non ci facciamo del male da soli, non ho dubbi. Aspettiamo il cadavere che sta passando. E allora però io non mi faccio prendere in giro da questa gente che bleffa, completamente bleffa. Ma quella violenza di cui parli tanto ce l'abbiamo dentro, si vende nei negozi della città. A domanda, crede che sia giunto il tempo? L'Italia è pronta per una Presidente della Repubblica? A questa domanda io ho dato una risposta che credo anche un uomo avrebbe dato. Ho detto, certo, l'Italia è pronta. Allora, parliamoci chiaro, avrei dovuto dire che l'Italia non è pronta? È partita la guerra per il Quirinale, o la corsa al Quirinale. Avete sentito Grillo? Dovevamo governare noi col 25%. Perché non ci ha dato l'incarico? È semplicissimo. È semplicissimo, anche Grillo lo sa. Perché Grillo non avrebbe fatto alleanze con nessuno. Ed è vero che era il 25% della prima forza politica. Ma se non fai alleanze con nessuno, come fai a governare con il 25%? E dai, Grillo, lo sai anche tu, Non fare il furbetto. Che faceva Grillo? Andava a fare le consultazioni invitando Bersani allora a bersi la birretta con lui. Facciamo un governo insieme, Bersani. No, facciamo con Berlusconi. No, Grillo l'ha sempre detto, vuole governare da solo. Per governare da solo ci vuole il 50% più uno. Non il 51%, come qualcuno dice, confondendo la matematica con l'opinione. Il 50% più uno dei voti. Va bene, è partita la corsa al Quirinale, eh? Oggi il Corriere della Sera dice che qualcuno ha scomodato il linguista Tullio De Mauro per capire il significato profondo della parola imminente sulle dimissioni di Napolitano. Che vorrà dire imminente? Oggi? Domani? Metà gennaio? Imminente! Che vuol dire imminente? Noi qua abbiamo un filosofo, Paolo Del Debbio. Chiedo a lui intanto le reminiscenze filosofiche. Imminente, Paolo Del Debbio, che vorrà dire? Buongiorno. Buongiorno, imminente. Vorrà dire dopo la fine del semestre europeo. Oh, ecco, ecco. Però è stata creata imminente come parola prima del semestre europeo. Imminente, quindi voleva dire presto. Presto. Voleva dire presto. Però sì, ha detto imminente. Che vorrei? Vabbè. Vogliamo passare ad altro? No, va bene. Tutta la imminente. Ma accidenti. Lo dico dopo, dai. Avevo costruito tutto su questa imminente. Alle 9. Va bene. Alle 9. Sì. È una risposta imminente quella che ci darà Paolo Del Debbio alle 9, alle 9. Allora voglio chiederlo a Lageloni, perché la trovate così su Twitter. Chiara Geloni, come stai? Buongiorno, benissimo, grazie. Appena svegliata, che bella voce. No, sono svegliata tanto. Da tanto, quei 6 minuti, 7 minuti. Quei 6 minuti. Imminente, secondo te, cosa vuol dire? Perché tutti si interrogano sul significato di imminente. Qualcosa bisogna interrogarsi. Imminente vuol dire che è immine. Immine. È immine la possibilità che Napolitano ci lasci, va bene. È imminente, dai. Che dobbiamo fare? Insomma, l'ha detta più esplicitamente di altre volte. Sì, effettivamente. Il concetto però, insomma, era chiaro da un po', no? Abbastanza, sì. L'avevamo abbastanza capito. Posso dire una cosa? Sì? Scusa. Come no? Puoi dire quello che vuoi. Il partito che ha preso più voti alle elezioni del 2013 è il PD. Eccolo là. Sicuramente al Senato. Eccolo e là. Anche alla Camera. No, eccolo perché là. No, così, la zampata... Cioè, i numeri sono numeri, la no? La zampata di Chiara, della bersaniana Chiara. No, no, ma non è questione solo di alleanze, è proprio che il PD ha preso più voti del Movimento 5 Stelle, pochi, ma li ha presi di più, ma sia buoni. Alla Camera sia al Senato. Pochi, quindi, ma buoni. Questa cosa è una bugia che mi dispiace un po' che nessuno contesti, perché sai, insomma, uno poi alla fine gli girano anche un po' le scatole. Eccola là, eccola. Che non è vera, no? Vabbè, dai, facciamo così allora. Dopo aver salutato Lorenzo Nespoli in redazione e il nostro alpino Peter Bescapè, è aperto il Parlamento, noi possiamo dire quello che vogliamo. Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi, grazie. Anche perché oggi si conclude l'85esima settimana decisiva per la riforma elettorale e Paolo Del Debbio, sai che succede oggi? Ho scoperto dai giornali. Può darsi che l'Italicum approdi in aula al Senato, ma solo per qualche minuto. Non chiedermi di più, non ho molti dettagli in più, solo per qualche minuto. È un approdo imminente. Vabbè. Però, vabbè, vuoi commentare tu il tuo migliore amico Beppe Grillo sulla questione dovevamo governare noi e governeremo sicuramente noi? Come si dice? Governeremo sicuramente noi quando prenderà il 50+1%, come dice Milan. E quindi non governerà mai, e perché tanto non vuole allearti, eccetera. Alle altre elezioni, ha detto bene Lageloni, il PD è quello che aveva preso più voti, lui non ha voluto fare alleanza con nessuno, vuole dire, no, ma Grillo, vuole dire, non gli va data tutta questa considerazione, però. Cioè, no. Vabbè, è un soggetto politico come gli altri, ormai. È un soggetto politico che spero, se uno dice una cosa che va contro l'evidenza della ragionevolezza, non gli si dà peso, perché non ce l'ha dato a noi, perché le alleanze si fanno con le coalizioni, lui la coalizione la voleva fare e basta. E poi devo stare dietro a Grillo, prima mi interroghi su imminente, poi vabbè, mi interroghi, ho capito, cioè, ma mi sono alzato alle 6:30 per rispondere a ste cazzate. Ecco. Oh, non lo so, facciamo come l'esame di maturità, scelga un tema Del Debbio, faccia come la Boldrini, si faccia la domanda, faccia come la Boldrini, si faccia la domanda e si dica la risposta. Eccola. Avevo risposto come gli italiani sono pronti per una donna, e anche lì saranno pronti gli italiani per una donna, ci vogliono i voti, no? E poi dei parlamentari più che degli italiani. Sì, lo so. I parlamentari, non gli italiani, sono i parlamentari pronti per una donna. Sì, se trovano la donna, se trovano i voti. Non lo so. Noi per esempio abbiamo qui Chiara Geloni che potremmo, no, ma non ha 50 anni. Però è troppo giovane. È troppo giovane, porcaccia miseria. Facciamo una campagna per la Geloni. Ma non ha 50 anni. Quindi è beata lei. Non può. E quindi sì. Però è donna e quindi avrà una su un'idea, non c'è dubbio. Un'idea compiuta su quello che Laura Boldrini avrà voluto dire in questa. Sentiamo un po', Chiara Geloni. Mamma mia. Sono convintissima che gli italiani sono pronti per una donna presidente. Che sì. Problema è? Cioè, è chiaro che infatti. Non è un problema, è quello che ci stiamo interrogando. Io però sono anche dell'idea che l'approccio facciamo la donna non sia quello giusto, facciamo un presidente che abbia il consenso e le capacità di fare il presidente, naturalmente se sarà una donna mi farà piacere. Ecco, hai capito il politichese di Chiara Geloni? Cioè, comunque non sta per... Ci provarono già con Abonino, no? Cioè, Abonino è candidato. Io l'ho detto che un giorno la faranno presidente per disperazione, per non vederla più candidata, perché tutte le volte c'è Emma Bonino. Abonino è candidata a molte cose di solito, se non è solo la presidente. Sì. Ci sono un po' i candidati di professione, eh? Sì, per esempio? Sì. Me lo ricordavo di un paio di Forza Italia, uno del PD, quelli che. E si candidano comunque, cioè sì, sono sempre candidati. Il nome esce. Gianni Letta non è ancora uscito. Uscirà, sì, è Gianni Letta. Figura. Ma come non è ancora uscito? Gianni Letta è in automatico. Gianni Letta è candidato, sì, è candidato automatico, di default. Automatico. Berlusconi di default. No, ma perché la questione è questa. È da due giorni che se uno legge i giornali stride la matti il fatto che il mondo parla di Cuba, degli Stati Uniti... parla di tutte queste cose storiche, no? Sì. Che stanno succedendo e noi parliamo dell'Italicum. La tensione ai fatti internazionali in Italia si divide sui giornali 365 giorni, non in questi due. Ma in questi due e poi spicca, perché voglio dire... Ho capito, ma te piglia un quotidiano francese, piglia un italiano, qualsiasi. Dico, non uno, così. Vedi la proporzione tra quel che dice Le Monde sulla politica internazionale e quanto ci dedica e quanto si dedica al Corriere, per esempio. Questo quanti giorni è all'anno? Sempre. 165. Sempre, solo che adesso sta succedendo che la Russia sta andando a catafascio. Un quotidiano italiano apre, no, come si dice, con notizie sotto la sole, è un caso. O un evento clamoroso. Il Papa che aggiungere una cosa. Certo, Chiara, che dici? Volevo aggiungere, magari parlassimo dell'Italicum, no? Che ci fosse un dibattito politico nel paese in cui si dice ma quale legge elettorale vogliamo? Ma tu lo vedi il dibattito politico tra i politici? Interessa solo. Parla di quando vai in aula per 5 minuti. Sì. Così oggi. No, proviamo a gennaio prima di quell'altra cosa. Ma tu l'hai capito almeno il perché, così lo diciamo. Cioè, perché se vai in aula oggi qualche minuto viene incardinato. Viene incardinato, vuol dire ragazzi. Che poi quando si riprende da lì, si ricomincia da lì e si approva in tempi più rapidi. Cioè, hai capito che è una cosa di tecnicalità, tecnicalità parlamentari. È come il piede del rappresentante del venditore porta a porta, che mette il piede nella porta. Sì, almeno un po' sono dentro, un po' già gli ho venduto mezza aspirapolta. Uno dice, ma perché questa legge elettorale va approvata così? Perché ci sono le elezioni? Sai. No, non ci sono le elezioni e comunque va in vigore nel 2016. Ma che dico, nel 2017? Attenzione, però qua c'è un'accusa, c'è un'accusa pesantissima, attenzione. Ci arriva un messaggio. La bugiarda è la Geloni. Il PD ha preso 6.644.000 aspetta, fammi finire. 6.644.187 voti. Il Movimento 5 Stelle 6.600.000 188.168 voti. Mo adesso dobbiamo anche discutere sulla matematica. No, allora, devi dire a quel signore che intanto lui guarda solo la camera, invece giustamente le camere sono ancora due. Sì, dopodiché per non ora, ha guardato i voti degli italiani residenti all'estero, che sono italiani anche loro, e votano per il Parlamento italiano fino a prova contraria. Ma sì, ma poi l'abbiamo detto. Sono separati quei due numeri. Ma sì, ma poi voglio dire, ma tanto la vicenda politica è come si diceva, cioè tanto Grillo non faceva alleanza e quindi un presidente non darà mai un mandato esplorativo a fare il governo con uno che non vuol fare alleanze. Ma adesso al di là dei 100 voti, non è che vince chi prende un voto in più. Poteva partecipare alla formazione del governo, se voleva. Sì. Ah, te la ricordi? Quella dice. Ma tu l'avresti sognato un po'? Dai, Bersani al governo. Cioè, guarda che riscrivi la storia. Bersani premier con Di Maio vice premier. Non ho mai pensato niente del genere, non era questa la proposta che faceva Bersani al Movimento 5 Stelle. E che proposta faceva? Di entrare al governo? Di partecipare, di consentire, come disse quello streaming famoso, consentire di mettersi un po' in gioco, mica voleva dire fare Grillo e Casaleggio ministri, voleva dire Di Maio. Te lo vedevi del debbio, Casaleggio ministro? Se fa il vicepresidente della Camera, poteva fare anche il sottosegretario. No, aspetta, si sta addormentando del debbio, fai parlare lui, che non vorrei. No, per Grillo, è colpa mia, è il tema, non gli interessa. Per Grillo, io non ne voglio più parlare. Basta, non ne vuole più parlare, va bene. Allora, su, Bersani gli fece una proposta ragionevole, è l'unica proposta possibile, no? Vabbè. E quello dice di no. Ma che vuole? Allora vi faccio sentire questa, Renzi è andato in Europa. Renzi è andato in Europa, c'è questa scena, dovete immaginarla. Renzi ha iniziato a parlare con un robottino. Adesso non prendetemi per matto, è vera, la scena è vera. Renzi è un robottino che gli ha fatto una domanda. Non lo so in che contesto, sentite. Hai una domanda per il Presidente del Consiglio? Do you speak English, Matteo? No, not this. No. Nice to meet you. My name is Shish. He was a worker, so he invented Ma ve lo ricordate Renzi in inglese del debbio? Ma te lo ricordi? Anche c'è sto robottino, do you speak English? E lui, my name is Shish. Mamma mia, ragazzi. No, fai il bravo. Chiara, mica come Bersani. Ma Bersani conosce le lingue? Bersani parla francese. Conosce molto bene il francese. Come Berlusconi. Beh, un po' anche l'inglese, ma insomma meglio il francese. No, ma volevo dire che Renzi lo fa apposta, sai. Ma lui che ha pilotato inglese. No, lui parla benissimo inglese in realtà. Ah, davvero? Sì, lo fa per fare il simpatico. Fa finta di non sapere l'inglese. Vabbè, questo è stato il momento forse più impegnativo della presidenza del semestre europeo, italiano. Vabbè. Ecco, it's the time of traffic. 24 mattino. Alessandro, fammi una cortesia, telefona a Benigni e pregalo di andare in pensione ritirandosi in un convento oltre i 2000 metri insieme a Bertone Bagnasco e chi più ne ha più ne metta. Milan, ma di Cuba e l'America, ma chi se ne frega? Alessandro, non ci lasciare per Natale, il Natale non è più lo stesso, ti prego, non andare in vacanza. Alessandro, Milan, mani sul volante. Nella sua evoluzione la Lega è passata dal trota al carpa. Sai, la carpa è quel pesce grasso coi baffi che grufola nel fango. E poi sentire un pennare come il nostro presidente del consiglio, che sa tutto lui, che decide lui, altro che zappa, come dice quel carissimo amico da 7 kg, ci vuole un zappone ci vuole, neanche da travagliare. Vabbè, lo zappone, secondo questo ascoltatore. Noi siamo con Paolo Del Debbio, che conduce Quinta Colonna su Rete 4 lunedì, che però adesso è in vacanza. Riprende quando? Riprende il 12 gennaio. Voglio la Geloni, però. In che senso vuole la Geloni? Voglio la Geloni a commentare un po' di fatti. Va bene, faccia un'offerta del Debbio. Siamo veramente Chiara Geloni al mercato delle idee, questa. Faccio Chiara. Un'offerta meravigliosa. Ho capito, ma del Debbio, siamo di fronte alla prossima direttore dell'unità, quindi. Sì. Mica. Vabbè, allora io ho capito. Sempre queste cose alla radio e poi la gente ci crede. Ma ti ricordi che l'altra volta c'era Perrino e Perrino ha detto: no, ma scusate, questa me la son persa, ma davvero sei? Stava già scrivendo la notizia su affariitaliani.it. Ma come, davvero Chiara Geloni sei direttore dell'unità? Questa me la sono E meno male che non ho 50 anni, se no stamani finiva anche peggio. Finiva anche Geloni al Quirinale, così. Geloni al Quirinale, titolo di Affari Italiani, esclusiva di Affari Italiani. Allora, io andrò in vacanza, voglio tranquillizzare tutti, tanto non sono Obama, non sono Napolitano, dai miei destini non dipende nulla dell'Italia, fortunatamente per gli italiani, e quindi posso andare in vacanza tranquillamente. Però ho capito una cosa e vorrei il vostro parere su Benigni. Io sinceramente non l'ho visto con molta attenzione, ho visto così a sprazzi. Ho capito che per avere 7-8 minuti di celebrità bisogna criticare alquanto Roberto Benigni in questi giorni, però effettivamente la critica che io ho sentito più spesso è questa: ma come il laico Benigni, che si è convertito per questi 10 comandamenti, del Debbio, ma che critica è questa? No, guarda, cioè, che molti, le critiche sono proprio queste. Ho sentito gente dire addirittura su Rai 1 abbiamo dato per assodato, senza, con mancanza di rispetto a coloro che non credono, a coloro che mettono in dubbio l'esistenza di Dio. Guarda che la critica è soprattutto stata questa. Del Debbio, tu da filosofo più che da conduttore, ti è piaciuto il Benigni? Da uomo di buon senso, diciamo. A me può piacere o non piacere, questo non ha alcun rilievo. Constato da uno che fa la televisione, che ha fatto un successo pazzesco e che quindi c'è un largo pubblico a cui è piaciuto, che ha seguito peraltro con una permanenza sul programma formidabile, quindi che ha seguito dall'inizio alla fine questo programma, e quindi quello lì è una constatazione che va fatta. Dopodiché, che significa? Perché nei dieci comandamenti, allora diciamo a questi qui che dicono dell'ISIS, è contenuta la famosa regola aurea, che è quella: non fare gli altri ciò che non avresti fatto al te, eccetera, eccetera. Sì, va bene? Sì. Questa cosa qua. Cioè, questa qui se ne sono occupati solo i religiosi da Mosè in poi, o è diventata una regola comune per tutti? Cioè, che vuol dire? No, ma infatti, nei dieci comandamenti se ne può occupare soltanto un prete? È paradossale che l'accusa, insomma, che gli hanno fatto è stata questa: sembrava appunto un cardinale, no? In Italia si passa dall'opinione di Grillo, che dice che con il 25% doveva governare lui, no? Vabbè, allora visto che ora l'ha nominato lui, però No, infatti, allora visto che l'hai nominato perché no, però Del Debbio, visto che non lo vuoi nominare ma l'hai nominato, ti faccio ascoltare Beppe Grillo su Benigni. Mancava questa. Beppe Grillo. Dio, quando dà le 10 comandamenti a Mosè, dice: spiegali bene in giro, se no vedrai che un giorno arriva uno come Benigni che per spiegarli vuole 2 milioni di euro. Eccola lì la polemica anche sui 2 milioni di euro. Ma io non lo so se li ha presi, ma se li ha presi beato Benigni, cara Chiara. Io sarei andato per esempio per 200.000 a spiegarli, mi avrebbero visto in 5. Spiegate a Grillo che quei 2 milioni di euro alla Rai gli sono buttati almeno 6. Ma certo. Chi è che fa 10 milioni di telespettatori? Del Debbio, Del Debbio, per esempio. Io non ho capito chi è che vuole. Vorrebbero, cosa vorrebbero? Il comunismo, tutti vestiti uguali, con i colletti alla coreana, tutti devono prendere lo stesso stipendio. Cioè, se c'è un una trasmissione che fa 10 milioni una volta l'anno alla Rai, è chiaro che chi la fa prende dei soldi. Ma tra l'altro l'ha fatta due serate di seguito, ma infatti guarda, sono le polemicucce di Natale, e che dobbiamo fare? No, le guarda, sono dettate, nel caso di Grillo purtroppo dall'invidia perché ha sbagliato mestiere, si è messo a fare la politica, allora gli riesce a trovare Uccio. E se, siccome è uno tra l'altro di Genova, con tutto il rispetto per i genovesi, se non gli piacciono i vaccini, è attaccata ai soldi. E quindi va bene, gli piacciono e ritorni a fare il suo mestiere, e chi lo faceva meglio. Sì. Secondo, poi c'è la polemica ancora clericale e anticlericale. Il risorgimento è passato. Svegliatevi, cari siamo italiani. Dopo Porta Pia, capito? Non c'è più. C'è Porta a Porta, ma Porta Pia no. Porta Pia. Quella. La battuta del mese. Io vi devo salutare. Però vi devo fare gli auguri di buon Natale. Buon Natale. Torna il 10 e la Geloni con l'unità. Quando l'unità tornerà. Viva la Geloni. Ciao. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:18 minuti e oggi si chiude l'85esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché per l'abolizione delle province. Si chiude con un nulla di fatto. Ma l'86esima, certo, c'è il Natale. Dubito che possa essere quella decisiva la prossima, di settimana. Lo dubito fortemente, ma noi abbiamo questo ottimismo imperituro, questo ottimismo che non crollerà mai, e quindi questa 86esima settimana che ha le porte la attendiamo con molta, molta ansia. Ansia positiva, E allora, oggi parleremo per l'appunto, tra l'altro, di province e di regioni. Sapete che c'è chi propone le regioni invece di diminuirle? Sarà mica il problema, infatti, le regioni rispetto alle province, viste le ruberie che abbiamo letto sui giornali negli ultimi anni. Anche perché le province hanno altri problemi. 20.000 dipendenti che sarebbero in esubero e dal 1 gennaio non si sa che fine faranno. Alcuni di loro stanno occupando, mi risulta per esempio a Firenze, dormendo in sacca a pelo nella sede della provincia, ma anche in altre province. Fatevi sentire se volete, scriveteci un messaggio al 349-238-6666. Puta caso, magari vi chiamiamo anche come ospiti alle 8:15. Comunque ne parleremo dalle 8:15 con ospiti e intanto andiamo a leggere i giornali. In questo venerdì 19 dicembre i titoli. Bond europea ai minimi, nuovo record per il BTP, questo è il titolo di apertura del Sole 24 ore, mentre l'Europa divisa su Putin è l'apertura del Corriere della Sera. Poi la vicenda Napolitano e le dimissioni imminenti, per la prima volta il capo dello Stato ha usato questo aggettivo. Repubblica titola proprio così, Napolitano dimissioni imminenti. C'è anche la straordinaria vignetta di Altan, genio, in prima pagina. Napolitano ci lascia. Ma come? Prima delle favolose Olimpiadi? La Stampa, Napolitano, dimissioni imminenti, Renzi sicuro, troveremo un'intesa. È meno sicuro il Fatto Quotidiano, Re Giorgio me ne vado e lascia l'Italia nei casini. E così il giornale, Napolitano ci lascia il caos. Libero, Prodi usa Putin per salire sul colle. Le trame di Prodi, secondo Libero, che ieri era da Putin. E vabbè, il titolo forse più azzeccato spesso accade al Manifesto, Sua imminenza. E c'è la foto di Giorgio Napolitano. Per il Messaggero, flessibilità, l'Unione Europea delude l'Italia, quindi un ampio respiro, un po' più europeo per il Messaggero. Voglio leggere alcuni articoli di cronaca, ve lo dico subito, questi sono tutti da mani sul volante. Tenete le mani sul volante ben strette, se siete in treno, mani sui braccioli o sul vetro, se siete in bici, mani sul manubrio, se siete a fare le vostre sontuose colazioni, appoggiate il caffè del tè o del tazzine, insomma, le tazzine del caffè bollente, e se siete a letto, mani sul cuscino, va, diciamo così. Allora, perché vi leggo alcuni articoli, cominciando dal Giornale, che continua questa inchiesta sul crack delle partecipate. Oggi Paolo Bracalini e Maria Teresa Conti si concentrano sugli aeroporti locali. Un disastro, decollano sprechi e stipendi. Soprattutto è l'aeroporto di Aosta che si mette in buona luce. Sapete quanti passeggeri, dati ENAC 2013, transitano nell'aeroporto di Aosta? 62 l'anno, una media di 5 al mese, circa uno a settimana, cioè praticamente una persona a settimana. Ecco, questo succede nello scalo intitolato all'aviatore politico Corrado Gé. La regione Val d'Aosta, proprietaria, ha investito più di 30 milioni senza riuscire a fare mai decollare l'aeroporto, ma anche a Montichiari, aeroporto gestito dalla società Catullo S.p.A., che gestisce anche lo scalo di Verona. Montichiari si sono persi più di 40 milioni nell'ultimo decennio, oppure a Biella, totale passeggeri, c'è un aeroporto a Biella. C'è l'aeroporto a Biella, 69 passeggeri l'anno, 7 in più di Aosta. Insomma, da Brescia a Foggia gli scali senza passeggeri che accumulano perdite milionarie, e le regioni aprono il portafogli. Quando aprono il portafogli le regioni, indovinate poi i soldi a chi li vengono a chiedere? Ecco, avete indovinato. Vabbè, dal Giornale passerei al Messaggero, che oggi mette in prima pagina con Diodato Pirone questo articolo sulle auto blu. Le auto blu, quelle che avevano tagliato, no? Ricordate? E invece no. Auto blu, la beffa dei tagli rinviati. Ma come? Non le avevano già tagliate le auto blu? Scrive Pirone. Non ci avevano detto la scorsa primavera che dovevano essere al massimo 5 per ogni ministero? E invece vuoi per l'annuncite, male cronico di tutti i governi, vuoi per i classici ritardi della burocrazia, vuoi per qualche imprevisto, come i contratti d'affitto non estinguibili, a fine 2014 si scopre che le cose non stanno proprio così. Già, come stanno le cose sul fronte delle auto blu? Secondo quanto risulta al Messaggero, quelle delle amministrazioni centrali in questo momento non sono 93 come dovevano essere, se fossero state ridotte a 5 ad ogni amministrazione. Non 93, ma 1100, ne ballano 1000 in più, compresa la lancia di rappresentanza del Premier tra queste 1000. Ecco quantificata la differenza tra annunci e realtà. 1000 auto blu, 1007 per la verità. Eppure avevano detto che i ministeri dovevano avere diritto a 93. E perché sono 1100 ancora? Chiede il Messaggero. Tra l'altro proprio sotto l'articolo di Diodato Pirone c'è, a pagina 5 siamo, Claudio Marincola racconta un'altra vicenda che invece riguarda la RAI, dove c'è stata un'infornata di nomine in attesa di accorpare le testate, in attesa di tagliare le edizioni dei TG, in attesa di ridurre eventualmente le sedi regionali, in attesa di tutto ciò la RAI nomina 5 vice direttori a RAI Sport, che poi voglio dire non uno, non due, non tre, non quattro, ma bensì 5, siori e siore, 5 vice direttori nominati a RAI Sport. Questo racconta il Messaggero. Se però avete le mani sul volante, tenetele strette, soprattutto se andrete in Germania. La notizia, in realtà è una notizia che si era diffusa nei mesi scorsi e che pare ormai sempre più confermata, Angela Merkel, sapete cosa fa? Fa pagare le autostrade agli stranieri. Ebbene sì, il meccanismo è un po' complicato, ma oggi racconta Libero, dal 1 gennaio 2016, quindi tra un anno, non tra pochi giorni, dal 1 gennaio 2016, gli automobilisti stranieri in Germania dovranno pagare il pedaggio su autostrade e strade statali. Lo racconta Maurizio Stefanini sul Libero. Attenzione, uno dice, ma come? Come si fa una discriminazione nei confronti degli stranieri? I tedeschi non pagano, gli stranieri sì, siamo in Europa, Angela Merkel, toc toc, l'Europa, quella che ci bussa tutti i giorni sulla porta. Ebbene sì, siamo in Europa, ma attenzione, che cosa hanno escogitato come meccanismo? In realtà pagheranno tutti, col classico bollino, come quando si va in Svizzera, no? Il bollino. Che pagheranno anche i tedeschi, ma i tedeschi poi avranno indietro l'ammontare pagato attraverso un meccanismo di sgravio fiscale sulle tasse del veicolo. Gli stranieri no, risultato dal punto di vista legale è tutto a posto, perché in realtà pagano tutti il bollino. Poi però ai tedeschi diamo indietro dei soldi, magari il corrispondente del bollino pagato, e gli stranieri ce l'hanno in quel posto. La Merkel ci fa pagare le autostrade dei tedeschi. Avete capito come si protegge un paese? Lo avete capito come si protegge un paese? Ebbene sì, si fa così. Come fa Angela Merkel? Vabbè, ma se siete abbastanza arrabbiati, sappiate che da Libero si viene a sapere che attraverso l'utilizzo di soldi che dovevano essere utilizzati per la gestione dei profughi e la inchiesta di Roma, facevano anche pranzi con crostacei come scampi, con mazzancolle, orate, polipi, funghi, tartufate, paste frolle, cacio imperiale. Crostacei, formaggi, pasta ai tartufi, pranzi da re coi soldi per i profughi. Sotto accusa il indagato, anche il presidente di Confcooperativa Rieti, scrive Libero a pagina 6. Vabbè, avete capito, oggi dopo dite che vi faccio arrabbiare troppo. Allora veniamo al premio Mani sul volante, quello vero. L'articolo che ci fa pensare di questa mattinata, anche se ne ho letti alcuni e quindi c'è un'ampia scelta, sono sempre su Libero, dove una serie di intercettazioni, pagina 14, Alessandro Gonzato, raccontano ciò che una banda di ladri albanesi faceva in Italia. Che cosa faceva? Rubava, per l'appunto, ma intercettati questi ladri se la ridevano, chiamando le mogli a casa dicendo: oh, ho rubato degli iPhone, vuoi un iPhone, vuoi un telefono, no, vuoi un gioiello? Tanto qui in Italia si può rubare così, e solo qui in questo paese sono possibili certe cose. E se la ridevano, tanto qui in galera non ci va nessuno, come direbbe il nostro Oscar Giannino. Ladri! Alessandro Mila, tartaruga ninja in informazione. Ma chi è sto genio? Tartaruga ninja del... cos'è che ha detto? Disinformazione, non lo so. Ma un grandissimo abbraccio. Poi a questa età non si capisce neanche bene se sia un bimbo o una bimba. Comunque un grandissimo... perché non un bimbo? Un bimbo. Sì, un bimbo, sembrava un bimbo. Un grandissimo abbraccio, ma che bello. Eccoci qua, allora, siamo qui a leggere i giornali. La legge di stabilità è una maratona, deve essere approvata entro il 23 dicembre. Se non verrà approvata entro il 23 dicembre si lavorerà anche dopo Natale, già nel weekend, in questo weekend alla Camera si lavora, per l'appunto. Le notizie più interessanti, quelle che interessano certamente molti italiani, è il Secolo XIX racconta, con Carlo Gravina, pagina 3, che c'è il pressing finale per tentare di rinviare le tasse da pagare per i comuni alluvionati. Sapete che prima era scattata la mannaia implacabile dello Stato a dire no, bisogna pagare tutto entro il 22 dicembre. Ora siamo al 19 dicembre, comuni alluvionati, stop alle tasse, più vicino dunque una speranza che l'esecutivo possa far slittare, non è che vi cancellino le tasse, questo nel mondo di utopia, però potrebbero farvi slittare il pagamento delle tasse al 25 febbraio del 2015. Il governo si è impegnato con un ordine del giorno accolto, che non è un atto legislativo, ma impegna il governo a prendere dei provvedimenti. Il Secolo XIX, insomma, pagina 3, racconta, c'è più ottimismo sulla possibilità che in extremis ci sia il rinvio del pagamento delle tasse. Mentre non sono ottimistiche le previsioni delle società che lavorano al gioco legale, lo gioco d'azzardo legalizzato. Perché? Libero, con Francesco De Dominicis, la notizia peraltro è di qualche giorno fa, ma fa sapere che è sempre più vicina la conferma di una tassa da 500 milioni di euro, proprio di tasse sui giochi. Viaggia in ritardo la manovra sui conti pubblici, fa sapere Libero, e questa questo contributo extra da 500 milioni di euro, che secondo me è una cosa vergognosa. Cioè, pensate un attimo, cari ascoltatori, lo Stato garantisce il gioco d'azzardo legalizzato, e su questo si potrebbe discutere. C'è chi dice già che è una vergogna, le slot machine, eccetera, che poi mettono in crisi molte famiglie, creano anche, hanno creato questa ludopatia. Lo Stato che fa? Da una parte accetta questo e poi lo accetta per tassarlo, lo Stato biscazziere, perché poi ci fa le tasse, ci fa i soldi e fa la legge di stabilità e ci piazzano, pam, 500 milioni di euro di extra tributi a questo settore. E poi dicono lo Stato, poi dopo ci sono i ludopatici, adesso dobbiamo anche curarli, giustamente, perché è una ludopatia, è una malattia. Ma che modo è? Che modo è? O consideri una cosa perché fa male illegale, non è che la consideri legale per farci le tasse e poi dire ci sono i malati per questa ludopatia perché giocano d'azzardo. Intanto serve a mantenerlo per piazzarci 500 bei milioni per farci dei soldi. Va bene, come detto c'è una rivolta nelle province, ne parliamo alle 8:15 perché ci sono 23.000 circa persone considerate in esubero, no 26.000 forse, sono i dipendenti delle province, le famose province che non sono state abolite ma rivisitate, diciamo così, come un piatto di cucina. Maxi emendamento, fiducia sulla manovra, rivolta nelle province. Ecco qua Roberto Petrini su Repubblica, ma anche Il Giorno. Sforbiciata alle piccole partecipate, scontro sugli esuberi delle province. Che succede? Mi risulta che alcuni dipendenti delle province siano proprio barricati, sacco a pelo. Qualcuno giustamente mi scrive, ma senza voler fare una guerra tra poveri, cosa lungi da noi. Molti dipendenti pubblici delle province dormono in sacco a pelo nelle sedi delle province, alcuni dipendenti privati, ahi noi, dormono in sacco a pelo sotto i ponti, perché molti che hanno perso il posto di lavoro. Comunque parleremo di questa vicenda anche delle province, avremo il presidente dell'Unione delle Province Italiane, nonché avremo un onorevole che propone invece di sforbiciare le regioni, o meglio accorparle, da 20 a 12, credo, ma ce lo spiegherà dalle 8:15. Sta di fatto che alle province c'è gran subbuglio, perché dal 1 gennaio che succederà, chi lo sa. C'è gran subbuglio invece in Europa, allarghiamo un po' gli orizzonti. Mi piace in questi giorni in cui Cuba ha portato alla ribalta le notizie internazionali sui giornali, allargare un po' le nostre menti. Ebbene, in Europa invece c'è una grande divisione, guarda caso, sulla questione della Russia. Ieri Putin ha fatto una conferenza di fine anno dicendo nessuno incatenerà l'orso russo, ha chiesto 2 anni per il rilancio. È una Russia sempre più assediata dai mercati, ma che scommette sulla formula serrare i ranghi dietro al capo. L'Europa, come racconta Luigi Offeddu, pagina 2 del Corriere della Sera, è divisa. E inizia Offeddu l'articolo così: è sempre stato così in fondo. La grande Russia disunisce l'Unione Europea. Anche ieri a Bruxelles Donald Tusk, polacco, neo presidente del Consiglio europeo, aveva chiesto agli altri 27 leader una strategia dura e responsabile per lanciare un messaggio al Cremlino che assedia l'Ucraina. Risposta: nuove sanzioni contro la Crimea occupata da Mosca, ma per il resto divisioni. Un vertice magro, la seconda giornata di lavoro è prevista per oggi, è stata tagliata, una divisione e la solita occasione sciupata dall'Europa, che su queste grandi questioni è troppo divisa. L'Europa unita è un sogno. Così racconta il Corriere, mentre Cuba invece si interroga, festeggia certamente. Vi segnalo l'articolo, per esempio, che sul Manifesto fa Roberto Livi, che è a La Habana e racconta da La Habana il festeggiamento. Intanto il festeggiamento perché l'America ha ridato indietro alcune che venivano considerate spie dagli Stati Uniti e che sono considerati patrioti dai cubani. Quindi volvieron, sono tornati. Roberto Livi inizia così l'articolo da La Habana sul Manifesto a pagina 2, e quindi l'isola, racconta dell'isola in festa. Ma poi ci si interroga sulla svolta Obama-Castro, Castro inteso come Raul Castro dei giorni scorsi. Intanto il Corriere della Sera con Gian Guido Vecchi, intervista a pagina 13 Loris Capovilla, che ha 99 anni, è stato il segretario di Papa Giovanni XXIII nel 1959, quando al Papa arrivò da Cuba la notizia della rivoluzione di Fidel Castro, e racconta Capovilla: non è vero ed è una leggenda che Fidel Castro sia stato scomunicato dalla Chiesa, ma che non ho mai capito come sia nata questa storia, visto che la parola scomunica non esisteva nel vocabolario del Papa. E ancora, prima che ancora di sapienza diplomatica, vorrei parlare di una grande azione umanitaria cristiana del Papa e dei suoi collaboratori, dell'attuale Papa. Così Loris Capovilla a elogiare quello che è stato il ruolo della Santa Sede. Ora si parla già di un Raul Castro che potrebbe andare alla Casa Bianca. Obama si dice pronto a invitarlo. Ovviamente c'è chi protesta, i repubblicani protestano. Viene intervistata dal Fatto Quotidiano e da Repubblica Aleida Guevara, una delle figlie di Che Guevara, 53 anni, pediatra, cura i bambini in ogni paese in cui la chiamino a farlo, e alla domanda: è iniziata la fine dell'embargo sul Fatto Quotidiano? Risponde la figlia di Che Guevara: no, la fine del blocco la decide il Congresso americano, questa è una decisione molto importante per l'apertura, è una distensione tra i popoli, un riconoscimento alla rivoluzione che, come dice Fidel, è cambiare tutto quello che deve essere cambiato, è l'integrità del rivoluzionario, mantenere un'etica, essere conseguente col proprio pensiero, essere solidale, sensibile al dolore, all'allegria altrui. Questi i valori, l'istruzione, l'educazione, la salute. E poi Aleida Guevara dice: vorrei a questo punto abbracciare Fidel Castro. Insomma, nomina in questa intervista tante volte Fidel Castro, non tanto il fratello Raul, che ora comanda e governa Cuba. Certo, se sarà una vera e propria rivoluzione, questo lo si scoprirà solo cammin facendo. Intanto voglio salutare Mauro Meazza. Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. A proposito di disgelo, dicevi, no? Esatto. Non mi veniva subito il collegamento. Anche io ti saluto tra l'altro annunciandoti, poi noi ci risentiremo nel 2015 a questo punto. Ebbene sì, ebbene sì, tu vai in vacanza. Tu sei debosciato e io anche. In vacanza io. E quindi un gruppo di debosciati, va bene. Come sai che si parla di licenziamenti per scarso rendimento, speriamo, come dire, che il nostro ufficio personale... Per debosciume. Sì, potrebbero licenziarsi per debosciume. Va bene, comunque portati, mi raccomando, il che oggi trovi con il Sole 24 Ore quando vai in vacanza, così puoi leggere cose interessanti, il nostro magazine, perché oggi in vendita con il Sole 24 certo. Ore. Il e poi niente, oggi lo sai, è una giornatona perché dovrebbe finalmente vedersi prendere forma definitiva la legge di stabilità. Sono anche un po' emozionato. Cose che entrano ed escono sembrano quel verso del poeta nella stanza, i commi vanno e vengono, parlando di Michelangelo. Non era proprio i commi, mi pare fossero le donne, ma insomma vabbè, questo ci tocca in questi tempi. Ieri ti parlavo di prosciutti in Cina, oggi ti segnalo che venderemo ai cinesi anche il latte in polvere per il latte per neonati, È una, e lì sono tanti, buona... Insomma, sì, speriamo, non hanno ancora la crescita, diciamo, con valori occidentali, e quindi è una buona notizia di cui diamo conto nelle pagine di Impresa e Territori, caro, mentre di ovviamente legge di stabilità parliamo sia nelle primissime pagine che in quelle di Norme e Tributi. E poi ti segnalo i conti del Napoli Calcio, che sono buoni, non facciamo paragoni con le nostre squadre, ne parliamo in finanza. Milan con Napoli non fa paragoni ultimamente. Basta, entro in me, amici napoletani. Sai che noi a Napoli in queste settimane siamo molto legati, ogni martedì diamo anche questi DVD con i film di Totò, che ti voglio ricordare anche su debosciato. No, sei ancora al lavoro quando diamo il prossimo film, vedi, martedì prossimo, sai? Allora. Mentre io più debosciato non sarò al lavoro. Va bene, e ultimo, ma non per questo meno importante, come stai a peso? Perché guarda che la Corte UE ha detto che il lavoratore obeso potrebbe essere anche tutelato come un handicap. Io non so se quei chiletti va bene, obeso ancora no, non lo dammi so. Tempo comunque, un attimo. Se vuoi leggere tutti i particolari, sai dove devi andare, caro Alessandro. Su Norme e Tributi. Esattamente. E dove se no? Abbi pazienza. Alessandro Mina, il Che Guevara dell'informazione. Ovviamente di questi giorni va benissimo così. Allora, c'è un grande dibattito che proviene dall'Unione Europea, dalla Corte di Giustizia Europea, per la vicenda degli ovuli. Sugli ovuli non fecondati si possono fare brevetti. Questo è il titolo, per esempio, del Corriere della Sera. È un qualcosa di molto anche tecnico. Come scrive il Corriere, un ovulo umano non fecondato non è un uomo, non potrà esserlo mai, né potrà mai essere assimilato a un embrione, anche se è iniziato a svilupparsi in laboratorio grazie alla partenogenesi, cioè alle tecniche chimiche ed elettriche che non prevedono il ricorso agli spermatozoi. Questo è ciò che ha sentenziato la Corte di Giustizia Europea e soprattutto ha decretato un'altra cosa, cioè che quello stesso ovulo, non avendo potenzialità di sviluppo umano, può essere in linea di principio brevettato da un'azienda, comprato, venduto, usato per sperimentazione nella ricerca sulle malattie. Ora, al di là dei commenti, Avvenire titola in prima pagina l'umano brevettato, perché viene definita una sentenza shock questa della Corte Europea, perché, come dice Monsignor Sgreccia, è potenziale vita umana. Nulla cambia se evolve o meno. Qui c'è un dibattito bioetico molto molto serrato, tanto che il Sole 24 Ore mette in prima pagina il commento e due commenti, uno di Gilberto Corbellini, che è uno scienziato, se non abbatto il microfono, e l'altro quello di Vincenzo Paglia, che è arcivescovo e presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia. Secondo Gilberto Corbellini è una sentenza storica che rimedia un danno, mentre per Monsignor Paglia così si antepone il mercato all'etica e alla medicina. Il dibattito è molto alto, molto profondo. Se volete, troverete sicuramente sui giornali tanti elementi oggi interessanti, se siete interessati a questo dibattito di bioetica, per approfondire la questione, che è molto scientifica, molto etica certamente, e che è anche ben approfondita. Io vi segnalo appunto il Corriere della Sera, Avvenire, il Sole 24 Ore. Questi due commenti di Gilberto Corbellini e Vincenzo Paglia pongono due punti di vista antitetici ma molto interessanti su questo tema. E sono le 7:49 minuti, quasi 50. Vi è mancata la politica? Il racconto del chiacchiericcio della politica che da due giorni ho volutamente tralasciato e messo qui? Perché ce n'è tanta, esonda dai giornali, figurarsi. E Napolitano ha detto che le sue dimissioni sono imminenti. Secondo il Corriere della Sera si sono scomodati perfino ad andare a bussare a un linguista come Tullio De Mauro a chiedergli: ma qual è il significato esatto della parola imminenti? Cosa vuol dire? Imminenti, pare, scrive Marzio Breda sul Corriere, che voglia dire il 14 gennaio. Metà gennaio. Ecco, e ci sono una serie di articoli, se volete, su... Vabbè, Grillo che ha risposto invece che dimettersi Napolitano dovrebbe costituirsi. C'è la corsa per il Quirinale. Il Corriere della Sera dice che forse non rispunta il Mattarellum come legge elettorale, ma Renzi potrebbe far spuntare Mattarella direttamente, Mattarella al Quirinale. C'è chi, come Libero, scrive che è Prodi che punta al Quirinale, e per questo ieri è andato anche da Putin per avere un appoggio. Non so, forse Putin è un grande elettore, o comunque in Italia comunque vuole un appoggio. Ci sono tutti questi articoli così che ci fanno pensare che dopo il 14 gennaio, data presunta delle dimissioni di Napolitano, non lo so, forse 14 gennaio e poi più oltre, ci sarà un mondo il 15 gennaio dopo che Napolitano si sarà dimesso? Credo di sì, che con difficoltà, perché sarà un Vietnam parlamentare, come scrive il Fatto Quotidiano, ma credo che con difficoltà, seppur tra mille difficoltà, si riuscirà a far andare avanti comunque il mondo, l'Italia, le istituzioni, ad eleggere un successore di Giorgio Napolitano. Staremo comunque a vedere. Se vi è mancato tutto questo di racconto della politica, mi scuso, da lunedì riprenderemo questo chiacchiericcio. In ogni caso, altre notizie di cronaca prima di chiudere. Repubblica oggi fa una bella inchiesta con Paolo Berizzi, sono due pagine sui jihadisti italiani all'estero. Fabio, Sergio, gli altri, i 40 miliziani che combattono sul fronte del Jihad. Hanno tra i 20 e i 45 anni, ecco le loro storie, persone che si sono convertite all'Islam, hanno abbracciato la causa jihadista e sono per lo più in Siria, alcuni in Libia, sono i guerriglieri della porta accanto controllati dall'intelligence e dai servizi segreti e sono, secondo Repubblica, i servizi segreti una quarantina in tutto il mondo sparsi, sono italiani sparsi in tutto il mondo. Una notizia invece di cronaca, che è una notizia negativa da una parte o positiva dall'altra, io non so come la vogliate leggere, io ve la dico freddamente, la raccontano sia la Stampa che il Giorno, contiene una tragedia ma anche una speranza al tempo stesso. È nata ieri una bambina, è nata al San Raffaele ed è nata da una donna che è morta clinicamente da 2 mesi. È stata tenuta in vita, diciamo così, dalle macchine che ora sono state staccate proprio per consentire a questa donna di portare avanti la gravidanza e incredibilmente, con un miracolo, quindi nel momento in cui una vita di fatto si spegne definitivamente, è nata la figlia. Adesso possono staccarle davvero la spina. Così i medici del San Raffaele di Milano sono riusciti in un'impresa che ha pochi precedenti. Hanno accompagnato fino alla 32esima settimana di gestazione una donna milanese di 36 anni che 9 settimane fa era stata colpita da un'emorragia cerebrale fulminante. Il ricovero al nosocomio, codice rosso, inutili tentativi di rianimazione, ma la constatazione della morte cerebrale si era presentato immediatamente un altro e più delicato problema, visto che la donna era incinta alla 23esima settimana. Il parto cesareo era impossibile, la possibilità di sopravvivenza di un feto così poco formato erano meno di 0. Nessuna macchina incubatrice sarebbe riuscita a portare avanti la gravidanza. E allora, su sollecitazione dei familiari della donna, che hanno fortemente voluto che si andasse avanti, i sanitari del San Raffaele si sono attrezzati per concludere la gestazione con un parto cesareo, hanno fatto nascere un piccolo di 1,8 kg, ma in buone condizioni di salute. Questo succede al San Raffaele. Vabbè, siamo al momento della carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali oggi vince il nostro amico Andrea Scanzi. Scanzi sul Fatto Quotidiano, mezza pagina sui rossi di D'Alema. Cosa sono i rossi di D'Alema? Ma i vini di D'Alema sono come lui, impeccabili, ma antipatici. I rossi di D'Alema, ma Scanzi! Ma chi se ne frega? Mattino. Sono le 8:20 minuti, eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, tante volte qui nel contare le settimane ironicamente decisive per l'abolizione delle province, l'abbiamo detto, e il dubbio che è fondatissimo anche nei nostri ascoltatori, cioè non sarà mica che per incidere sulla spesa pubblica sarebbe il caso di togliere le regioni invece che le province, visto anche tutte le inchieste. E la risposta certamente è sì, però qui voglio fare 2 premesse, perché ancora per l'ennesima volta, mentre discutiamo di questo tema su Twitter, anche poco fa mi hanno accusato: ah, tu vuoi affamare le famiglie, licenziare le persone, i dipendenti pubblici delle province. Intanto non sono io, ma sono loro, è la politica che annuncia da 30 anni di fare una cosa, cioè abolire le province. Sono loro, non sono io. Quindi il mio attacco non è nei confronti delle province. Io non ce l'ho con le province, non ce l'ho con i dipendenti delle province. Ce l'ho semmai con l'incoerenza della politica, che da 30 anni dice facciamo una cosa e non la fanno. Se avessero detto chiudiamo gli aeroporti, avrei contato le settimane ironicamente decisive dall'annuncio a quando lo fanno. Se avessero detto aboliamo le regioni, direi e sarei a contare le settimane decisive dall'annuncio dell'abolizione delle regioni a quando lo fanno. Siccome hanno detto da 30 anni aboliamo le province prendendoci in giro, ecco qui che contiamo queste settimane. Doverosa premessa, chi vuol capire capisce, chi non vuole capire continua a dirmi che voglio affamare le famiglie. E va bene, d'altra parte però parliamo di questo tema anche perché ci sono migliaia di dipendenti delle province in difficoltà e che dicono dal 1 gennaio a noi che succede, e lo faremo con il presidente dell'Unione delle Province d'Italia, Alessandro Pastacci, che presiede la provincia di Mantova. Buongiorno, ben ritrovato presidente. Buongiorno Milan e a tutti i radioascoltatori. così come saluto però l'onorevole del Partito Democratico Roberto Morassut, che ha fatto una proposta. Buongiorno onorevole, eccoci. Buongiorno. Ha fatto una proposta insieme al collega Ranucci, che è molto semplice, già depositata a Camera e Senato. Riduciamo, accorpandole, le regioni da 20 a quante, onorevole? A 12. 12 regioni. E questo perché? Per risparmiare soldi? Ma perché questa discussione, intanto data anche questa diversi anni, però non c'è stata mai una decisione in merito, e poi perché è un processo naturale nel quadro dell'integrazione europea. Voglio segnalare che la Francia, l'altro ieri sera, l'Assemblea Nazionale Francese ha votato, dopo un dibattito durato 2 anni e 3 letture in Parlamento, la riduzione delle regioni francesi da 22 a 13, quindi è un processo in atto in tutta Europa, è giusto l'Italia intraprenda lo stesso percorso. Le 12 come sono? Io ho visto, non so, per esempio Val d'Aosta, Liguria e Piemonte sono un'unica regione, poi la Lombardia rimane tale perché ha tanti abitanti, quindi cioè come l'avete studiato? Ovviamente per prossimità geografica e poi? Sì, un po' il punto di riferimento è lo studio della Fondazione Agnelli del 92, che a mio modo di vedere rappresenta, nonostante gli anni trascorsi, lo studio più avanzato e scientificamente più accurato su questo tema, con alcune varianti, devo dire, che abbiamo introdotto anche volutamente per aprire un dibattito. Ci sono alcune provocazioni nella testo di legge che sono servite, credo efficacemente, per sollevare la discussione e fare in modo che questo tema si imponesse. Per esempio, cioè, che provocazione si riferisce? In particolare io ho ricevuto in questi giorni tante lettere di consenso, ma anche qualche protesta, in particolare dagli abitanti del Molise, da Cuneo, della Basilicata e per esempio dalle province del Basso Lazio, Frosinone e Latina, che nella proposta di legge vengono accorpate alla Campania. Sì. Ora, naturalmente una proposta di legge è una proposta aperta, emendabile, poi parliamo di una materia che comunque dovrà essere sottoposta anche ad una consultazione alla fine di un testo costituzionale. Quindi cioè lei dice regioni piccole non hanno senso, è chiaro che non l'ha presa bene, non so, il Molise. Questo va da sé, magari forse tanti avrebbero preferito accorpamenti integrali senza suddivisione, sì, delle, sì, comunità regionali preesistenti, questo lo capisco, però diciamo la cosa è voluta sapendo che la proposta è aperta e emendabile, ma che io penso debba rimanere, almeno 2 criteri debbano rimanere fermi, cioè la riduzione almeno a 12 e la definizione di uno statuto regionale per Roma capitale, per la capitale, perché questo coincide con quanto avviene nelle grandi capitali. Ah, beh, questo è interessante, magari ci torneremo su Roma capitale. Prima però, presidente Pastacci, invece, sul fronte delle province, mi risulta che ci siano anche dipendenti che stanno occupando alcune sedi provinciali nell'incertezza di quello che succederà loro dal 1 gennaio. Intanto, quanti dipendenti sono delle province in tutta Italia? Ma ormai sono poco meno di 50.000. Complessivamente, rispetto alle forti riduzioni di questi ultimi anni, i blocchi delle assunzioni e poi una riduzione graduale che tanti enti hanno fatto. Quindi in questi giorni l'incertezza si somma, perché l'applicazione della riforma del Rio, che rivedeva il quadro di gestione delle funzioni delle province distribuite su regioni, comuni, in un sistema insomma diverso dal passato, ha introdotto questo nuovo ultimo emendamento del governo che, dovendo prelevare 1 miliardo di euro dai tributi delle province, ha dovuto iniziare a pensare qualche cosa di diverso. Lei condivide la preoccupazione, cioè ci sono dei dipendenti che dicono: noi non sappiamo dal 1 gennaio se avremo A, un lavoro, e B, che cosa faremo se ce l'avremo. Ma guardi, il problema è che questa confusione sta generando questo quadro non certo, grande incertezza. Quindi ci sono state rassicurazioni che i dipendenti non ci saranno licenziamenti, mobilità, ma mobilità ad interne all'ambito pubblico. Il problema è che questo non è dovutamente specificato e quindi deve essere ulteriormente chiarito, perché una riforma della portata del Rio avrebbe richiesto anche una serie di passaggi già definiti, chiari, per permettere che tutto potesse avvenire. Dopo anni e anni e decenni che se ne parla, arrivare a dover gestire un'emergenza negli ultimi giorni dell'anno con maxi emendamenti che si stanno modificando è un po' tardi. È un po' tardi. C'è chi ci scrive, presidente, ma come 50? Quale azienda 50.000 dipendenti? Beh, le province, d'altronde, sono tante. Quante sono? 107. Quelle nelle regioni a statuto ordinario e speciale. 107 province. Guardi, io mentre vabbè, ovviamente c'è chi, onorevole Morassut, scrive subito: noi delle Marche con Lazio non ci andiamo. Vabbè, è chiaro che poi figurarsi, quelli del Molise dovranno accorparsi ad altri, e vabbè, qua è l'Italia dei campanili, non mettiamo d'accordo Pisa e Livorno, figurati se mettiamo d'accordo Marche, Lazio, eccetera. Comunque vorrei sentire Marco da Firenze, ci ha chiamato, mi dicono che è di essere un dipendente della provincia di Firenze che ha occupato stanotte il palazzo provinciale, è così Marco? Sì, esatto, sono Marco Zatini della provincia di Firenze, della sì. RSU, delegato sì. della RSU, che questa notte ho dormito dentro il palazzo medico. Sa cosa le di? Sa cosa Marco? Questa provocazione che prima abbiamo detto, un ascoltatore ci ha scritto, ovviamente non vogliamo fare la guerra tra poveri, ma ci ha scritto: sì, molti occupano in sacco a pelo i dipendenti delle province, e ci sono invece purtroppo i dipendenti privati che il sacco a pelo se lo portano sotto i ponti perché sono stati licenziati dal giorno alla notte. Marco, questa cosa di fatti, la guerra fra poveri non deve essere la guerra fra poveri, ma di fatti noi, la nostra protesta principalmente è quella della difesa dei servizi pubblici che le province erogano ai cittadini, protezione civile, la viabilità, la spalare la neve, il trattamento antighiaccio. E vabbè, queste cose verranno redistribuite, no? Immagino. E queste cose verranno distribuite, sì, possono essere distribuite, ma con i tagli previsti dalla legge di stabilità, ecco da dove parte la nostra protesta. Sì, salvaguardare i posti di lavoro, ma i servizi ai cittadini che verranno fortemente penalizzati con questi tagli. Ma perché se vengono redistribuiti? Vabbè, se vengono, vengono tagliati, questo è un problema. Vengono tagliate le risorse necessarie a espletare i servizi. Perché se lei va a fare la spesa al supermercato con 100 euro compra determinate cose. Sì, però tagliare i servizi è una cosa diversa dal tagliare le province, sono due cose diverse. Cioè, infatti, questo, il taglio che viene fatto è indiscriminato, è un taglio lì, non è che viene salvaguardato i servizi ai cittadini. Ma mi faccia, ma è chiaro, mi faccia capire, ma voi cosa fate? Occupate a oltranza? Cosa fate adesso? State lì? Occupiamo a oltranza il palazzo, garantendo comunque i servizi, non c'è interruzione dei servizi. Ma certo, ai cittadini. Questo si intendeva, però che tipo di protesta farete? Cioè andate avanti a star lì di notte, non lo so. Noi andiamo avanti cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica. Noi abbiamo previsto una serie di volantinaggi sul territorio della provincia di Firenze che va a sensibilizzare i cittadini su quello che è il rischio di questi tagli della legge di stabilità comporterà ai servizi che la sensibilizzazione è giusta, fate il volantinaggio, insomma. Però vorrei tornare da Pastacci e poi ancora a Morassut. Pastacci, lei capisce questi tipi di proteste che ci sono? Ma, guardi, le dico, il problema che lei diceva prima giustamente, ma i servizi si ridistribuiscono le funzioni e quindi si fanno. Il problema è che questo sarebbe una riforma fatta bene, sarebbe la normale attuazione della riforma del Rio che prevede che le funzioni che non erano più nelle province venivano trasferite con personale e risorse ad altri enti. Il problema è che, avendo introdotto legge di stabilità, il prelievo di 1 miliardo dai tributi delle province, perché non è un taglio di risorse alle province, perché da 2 anni lo Stato non trasferisce più nulla alle province, togliendo queste risorse che dovevano seguire le funzioni presso altri enti, gli altri enti non fanno più le funzioni, hai capito? Cioè, perché le regioni adesso dicono... Però questo è l'effetto di una riforma evidentemente incompleta. Cioè non è tanto il problema che... Ha perfettamente ragione, è incompleta. Quindi magari negli intenti è anche giusta, potrebbe essere anche giusta se fosse fatta bene, ecco. Il problema è che bastava non mettere 1 miliardo di prelievo di risorse delle province dalla stabilità, ma aspettare che la provincia, che la riforma si completasse. Ma le dico una cosa, in Francia, citato prima il deputato Morassut, che la Francia passerà a 13 regioni. Sì. In Italia, tra l'altro, noi abbiamo già depositato da tempo nell'emendamento alla riforma costituzionale una riduzione a 8 regioni in Italia, e la Francia attuerà anche la riforma delle province andare al 2020, cioè prima rivede gli ambiti regionali, una volta rivisti gli ambiti regionali, ma si prende tempo e si fa la riforma fatta bene. Perché le province, anche in Francia, i dipartimenti erogano servizi. No, ma è chiaro, lei dice è tutto fatto senza logica. Onorevole Morassut, qui la questione, lei la vede una questione di dimagrimento dello Stato? Questo c'è. Come la vede la questione posta, come inizino prima le province, inizino prima le regioni, poi il rischio, il cittadino vede che non succede nulla di fatto. Noi guardi, nel 1990 fu approvata la legge che istituiva le città metropolitane, la 142. Sono passati 20 anni, le città metropolitane sono state istituite con il decreto del Rio dopo 20 anni. Ma chiaramente questo poi ha un peso, nel senso che noi non possiamo, questa riforma è stata fatta per chiudere un'epoca, naturalmente, però col peso di un passato che ha prodotto ben poco. Questo percorso di dimagrimento, di razionalizzazione, di efficientamento, noi ci arriviamo con tanto ritardo, quindi bisogna farlo. Però il timore Pastacci dice che siccome era in ritardo è stato fatto in fretta e male, questo ci sta dicendo Pastacci. Su questo non c'è dubbio che c'è stata un'accelerazione, che quando le cose sono ferme per 20 anni, adesso però la questione va ripresa e non si può riprendere se non si tocca il nodo delle regioni. Io vorrei segnalare questo aspetto, perché 20 regioni in Italia sono troppe, mm-hmm, e sono mal distribuite, e non è possibile, io lo dico da romano, ma non è un fatto campanilistico, è una grande questione nazionale la questione romana. Una città di 4 milioni di abitanti che deve competere con Berlino, con Parigi, con Londra, con le grandi capitali, non può essere amministrata. Poi ci lamentiamo dei problemi che ci sono a Roma. Ci spieghi questa cosa ci spieghi esatto la questione di Roma, lei cosa prevede nel suo disegno di legge? Prevede la istituzione di una regione che coincide con l'attuale provincia di Roma, cioè come a Berlino, Berlino è un land della Germania e Roma sarebbe una regione italiana. Quindi una delle 12, una delle 12. Ma molto più semplice. Oggi poi ci lamentiamo, dicevo, che nella periferia ci sono problemi. Uno dei problemi, non il solo, è il fatto che nelle periferie metropolitane, a Roma ma anche nelle altre città, agiscono 6 livelli amministrativi, dai municipi per finire alla regione. Uh-huh. Bisogna semplificare, ovviamente risparmiare e anche efficientare. Questo ovviamente poi bisogna vedere poi come le riforme sono applicate, però questo discorso occorre iniziarlo. Occorre iniziarlo. Augusto da Genova ci ha chiamato, ci ha contattato, è un dipendente della provincia di Genova. Augusto, buongiorno. Buongiorno. Che succede lì? Succede che dopo 3 anni di fango politico-mediatico, siamo al 6° anno di blocco del contratto, adesso ci ritroviamo, anche una cosa che non è stata detta, che il primo... tutti i dipendenti pubblici. Tutti, esatto, dipendenti pubblici. Con la differenza che noi abbiamo il contratto peggiore di tutti i dipendenti pubblici, ci ritroviamo col fatto, e questo non è stato detto, che il Presidente del Consiglio Matteo Renzi è il primo inadempiente ad applicare le leggi del Parlamento, perché già dall'8 luglio del 2014 la Presidenza del Consiglio doveva ricollocare le funzioni delle province non fondamentali verso i comuni e le regioni. Ma lei ha capito il primo gennaio che farà? L'ha capito? Non l'ho capito, ma non l'ha capito neanche il governo, perché sta cambiando il maxi emendamento da 3 giorni. Mancano 7 giorni alla fine dell'anno. Esatto, però diciamo c'è questo cortocircuito. Perché? Perché nessun ente tipo regioni, tipo comuni, si prenderà personale funzioni delle province dopo che è stato attuato un taglio così drastico alle risorse. Non è stato giustamente detto che non si tratta di tagli, si tratta dello Stato che si tiene i soldi dei tributi propri delle province che i cittadini continuano a pagare attraverso le RCA. Su questo, guardi Augusto, non c'è dubbio che noi cittadini continueremo a pagare, possono togliere anche le province, ma le RCA auto lo metteranno da qualche altra parte. Presidente Pastacci, per concludere devo andare in pubblicità, sia breve, mi perdoni perché sennò sforo di tanto. Lei ha capito il primo gennaio che succede ai dipendenti delle province? Allora, il primo gennaio che i dipendenti delle province, noi continueremo comunque a tutelarli, perché non possiamo permetterci che ci siano famiglie che abbiano, non sappiano che cosa succederà. C'è qualcuno che rischia il posto di lavoro? C'è qualcuno che rischia? Perché dicono di no ufficialmente, cioè non licenzieremo nessuno. Tutti dicono di no, ma che lo scrivano. Che lo scrivano? Dove? Che lo scrivono chiaramente nel maxi emendamento, che è la terza volta che cambiano. Ieri pomeriggio in conferenza unificata è stato sospeso perché ci hanno detto che il governo alle 8 l'avrebbe ridepositato. Poi dovrebbero depositarlo stamattina alle 10. Sì. Quindi comuni, province, regioni non sanno ancora cosa ci sarà scritto e che cosa. Quindi lei dice per avere una certezza che nessuno venga licenziato, lo scrivano nel maxi emendamento alla legge di stabilità il governo. Staremo a vedere, perché sono i giorni, questa volta sì, si può dire decisivi. Intanto vi ringrazio Alessandro Pastacci, presidente dell'Unione delle Province d'Italia, e Roberto Morassut, deputato del Partito Democratico. 24 mattino. Sono le 8.40. 7:42 minuti, eccoci qui. Allora, beh, se volete poi parliamo anche. Ci ha chiamato Andrea da Piacenza. Andrea, buongiorno, ci ha chiamato su Province e Regioni. Buongiorno, allora secondo me quello che dicevo è che né le province né le regioni hanno alcuna utilità, con una differenza. Nessuno, cioè. Nessuno, perché oltre Stato e comuni, lei vorrebbe Stato e bravissimo, poi comuni. Ma comuni neanche come sono così, comuni accorpati. Ah, ecco. E guardi, la gente che lavora lavorerebbe comunque, sì. Perché non è che li mandiamo a casa, se uno fa lo stradino continua a farlo e prende il suo stipendio come prima, sì. Mandiamo a casa un po' più di politici magari. Ma le regioni hanno una colpa in più rispetto a tutti gli altri, e cioè quella di potersi fare le leggi da sole. E questo è vero, e infatti tutte le, tra virgolette, ruberie, perché poi accertato, caro Andrea, sono soprattutto lì quando uno dice ha rubato più in regione che nelle province, di questo non c'è alcun dubbio, non c'è alcun dubbio. Andrea, la ringrazio. Io voglio salutare un ospite, un onorevole, perché mi ha molto colpito l'articolo che è uscito e che lo riguarda ieri sul Giorno. Si tratta dell'onorevole Giacomo Portas, che saluto. Buongiorno onorevole. Buongiorno, Portas. Buongiorno. Allora, l'onorevole Portas, sapete, quando è stato eletto col Partito Democratico alla Camera ha fatto un gesto che in genere fanno solo quelli del Movimento 5 Stelle, questo va detto, cioè ha restituito che cosa? Dei rimborsi elettorali? Sì, noi siamo un movimento piemontese, sì. Che ci chiamiamo i Moderati, alleati col centro-sinistra, e nel 2010 abbiamo partecipato alle elezioni regionali superando il 3%, per cui la legge sui rimborsi elettorali ci permetteva di prendere quanto? 200.000 euro più o meno? 110.000, mi pare 110.000, prima 110, poi l'hanno ridotto a 90.000 all'anno, per cui per 5 anni circa 500.000. E voi li avete restituiti? Dicendo... Non tutti. Non abbiamo restituito, abbiamo preso le due tranche, che sono, perché lei gli ho mandato ieri, non si vede, ha visto la mail, che è una cosa molto semplice tra l'altro rinunciare, a luglio, quando il 17 luglio abbiamo firmato dopo un'assemblea del 20 marzo di pagarci le nostre spese oggettivamente, dei manifesti, tutto quello che avevamo speso, e il rimanente è un momento particolare per lo Stato, per la nazione, di restituire. E questa è una cosa che rende merito insomma al suo movimento. Però ieri è finito sui giornali per un'altra vicenda, dice, ma lei tra l'altro dice, ma come, noi che abbiamo fatto questo gesto, io finisco sui giornali perché titolo ad esempio del Giorno, in famiglia sua arrivano gli 80 euro, lei è deputato quindi lo stipendio lo sappiamo attorno a 10.000 euro al mese, ma sua moglie che è dipendente della regione prende 80 euro, i famosi 80 euro di Renzi, no? Com'è possibile che pure in casa di un deputato arrivino gli 80 euro? Intanto è così, è così perché la legge insomma prevede che in base... Non è un decreto, una legge fatta ad hoc per me. No, è chiaro, siccome no, non c'è... Certo, perché anch'io ho visto il pezzo del giornale, che non l'ho voluto io. Del giorno. Sì. Ma c'erano anche altri giornali, c'era QN o altri giornali, adesso... L'hanno detto perché non l'ho visto bene, l'ho visto solo su WhatsApp che me l'ha mandato. Sì. Cioè, mi intervistano per questo, io non ho mai fatto pubblicità, francamente, non se lo ricordo, abbiamo fatto questo gesto, non l'ho fatto solo io, l'ha fatto tutto il movimento, il momento di difficoltà del paese. Non, chiaramente non sappiamo il paese, non siamo degli eroi. No, però va sui giornali per gli 80 euro che prende sua moglie. Lavora in regione, tra l'altro, dal 95. Io faccio il parlamentare dal 2008 al 95, perché rientra nella legge che hanno fatto degli 80 euro per chi ha diciamo lo stipendio meno di una certa cifra. Forse quello che vuole, allora poi si sa come... A noi possono attaccarci, fanno bene, perché veramente non diamo una bella immagine al peso di parlamentari, però in questo caso non mi sembra così. No, tra l'altro lei dice forse non sarà l'unico parlamentare che ha una moglie una parlamentare donna che ha un marito che prende gli 80 euro, non lo so. Tutti i partiti, cosa c'entra? Magari una persona fa il dentista, il marito fa il dentista e la moglie lavora in regione, ma questo non mi interessa. Però abbiamo tante altre colpe, secondo me questa non è proprio una colpa. No, ma è colpa, no, forse si voleva criticare, prendendo spunto dal suo esempio concreto, una legge che permetta di far avere 80 euro non tanto per il cumulo del reddito familiare, quanto perché è basata sul reddito singolo della persona, per cui succede che in una famiglia in cui uno dei due è parlamentare, in questo caso lei, quindi lo stipendio, ecco, sappiamo qual è, nonostante ciò arrivi a sua moglie gli 80 euro, che è tutto, sì, secondo me. Però guardi, devo dire, bisogna stare attenti, noi abbiamo, lo ripeto, abbiamo tante colpe noi parlamentari, noi politici, chiaramente non diamo una bella immagine al paese e andiamo sui giornali e fate bene i giornalisti a criticarci, a metterci in evidenza tutte le nostre magagne, tutte le nostre cose inutili che facciamo, anche i comportamenti scorretti. Ma in questo caso bisogna anche stare attenti a scendere, perché io faccio il parlamentare, potrei non farlo, ma economicamente mia moglie magari non è detto che, non dico io mia moglie che spero di stare insieme per tutta la vita, però per tanti altri non è detto che uno faccia il parlamentare a vita e non è detto che poi le famiglie stanno insieme a vita. Ci sono tanti casi, tra virgolette, di separazioni, di divorzi in Italia o cose molto più spiacevoli. Non c'entra nulla. Noi non dobbiamo approfittare del nostro ruolo, ma neanche essere penalizzati le persone che ci stanno più vicino. Vogliamo almeno dire, forse potrebbe essere questo l'invito a dire, questa legge andrebbe modificata a tener conto effettivamente del reddito, quasi un invito, visto che Renzi lei è stato eletto del PD. Sul reddito sono d'accordo. Cioè il reddito familiare, tener conto del, non tanto del perché sennò se uno guadagna, che ne so, 10 milioni di euro l'anno e a fianco a un consorte che guadagna 1000 al mese, prende gli 80 euro. Mi sembra, in quella famiglia arrivano 80 euro, mi sembra un po'. Bisogna sempre comunque poi entrare nel merito delle famiglie, ripeto, adesso non è il mio caso, in tante famiglie magari ci sono delle separazioni, intanto ci sono delle situazioni magari particolari, voglio dire, è giusto, ma questa è una scelta politica. Io non voglio contestare nulla, noi siamo moderati, cioè noi non abbiamo fatto gli eroi per... Vi chiamate così, immoderati, appunto, però non abbiamo fatto gli eroi, ci abbiamo pensato, proviamo anche noi a dare una mano ai tanti. Trovo assurdo. Tanti possono criticarmi in tante altre maniere, però per il fatto che voi lavori in regione e da un pezzo che non ho chiesto io di fare, dare questi 80 euro. Poi se lei dice forse è meglio guardare un'altra, le fasce familiari, forse lei ha ragione. Forse sì, però questo non dipende, non dipende da lei che deve fare. Faccio un appello a Renzi, anche da moderato. Faccio un appello. Sì, lei, io non sono del PD, però chiaramente questo si può fare, ma bisogna anche stare attenti perché il fatto che una persona stia insieme tutta la vita non è così. Ci dovesse malauguratamente essere una separazione, mia moglie ha diritto agli 80 euro perché appunto ha uno stipendio, ha uno stipendio che le consente di entrare però, in quella fascia. Invito i giornalisti a criticarci per tante altre cose, non per questo. Lei la ringrazio, voi che avete voluto far chiarezza. Intanto, onorevole, la ringrazio. Buon Natale, ovviamente. Saluto l'onorevole Giacomo Portas, deputato che è finito sui giornali perché la moglie prende gli 80 euro e dice: criticatemi per altro. 24 mattino. Siamo qui. Massimo da Firenze ci ha chiamato. Buongiorno, Massimo. Sul che cosa, Massimo? Buongiorno, caro Milan. No, io sono un po' incazzato perché praticamente, cioè, quando sento che io in questo caso si parla della provincia di Firenze, c'è chi dorme dentro, sì, giustamente, vabbè, difende il posto di lavoro. Il posto di lavoro, eccetera. Io ho il massimo rispetto per questa persona, però dire che la provincia di Firenze ora diventa inefficiente, cioè è sempre stata inefficiente. Il problema è un altro, perché l'inefficienza deriva dalle troppe persone che ci sono. Faccio un esempio pratico, semplice, basta, perché so che il tempo stringe. Cioè, quando si vede a riparare una strada ci sono 5 persone, invece se ci va un'azienda privata ce ne vanno 2, poi adesso sono tutti discorsi. Dice con questo si chiudono tutti i discorsi. Va bene, Massimo, ma guardi, su questo tema torneremo. La ringrazio. Intanto alle 8:52. Ciao Italia! È il momento, come sapete. Qualcuno un giorno mi ha detto: ovunque tu vada ci sei già. Io ho risposto: cambio solo città. È il momento in cui invitiamo ogni giorno un ascoltatore dall'estero. Oggi abbiamo Diego che ci parla da... Buongiorno Diego. Sì, ciao Alessandro, buongiorno. Dove sei tu? Sono a Shanghai. A Shanghai, in Cina. Ci fai lì a Shanghai? Qui sono da 9 anni e conduco una sorta di doppia vita. Di giorno lavoro in banca, e di notte il mio capoeira. Capoeira? Fantastico! Ah sì, ci hai mandato delle foto che pubblicheremo. Insegni capoeira, ma capoeira è brasiliana, ma che ci fai la capoeira? La capoeira a Shanghai è quella specie, scorreggimi, tra danza, ma che richiama anche le arti marziali, cioè figurate, no? È spettacolare, è spettacolare. Una lotta danza brasiliana. Cioè tu sei insegnante proprio? sono insegnante, posso anche vantarmi di averla introdotta io qui in Cina 9 anni fa quando sono arrivato. Perché quelli infatti sono più per il kung fu, per il karate, no? Il karate giapponese. Infatti, diciamo, non sono proprio molto portati anche per la capoeira. E ci vogliono i muscoli più brasiliani, più magari una struttura. Ma ci vuole un po' di improvvisazione, di elasticità mentale che un po' manca, diciamo. Un po' manca. E invece di giorno lavori, scusami, mi sono dimenticato, in banca, giusto? In una banca italiana, sì. Una banca italiana. Come si vive a Shanghai? Quanti abitanti ha Shanghai? Tantissimi. Shanghai ha più di 20 milioni di abitanti. Mannaggia. Si vive bene, diciamo, qui è un altro pianeta, cioè si va a un'altra velocità, a un altro ritmo, quindi è molto interessante farci un'esperienza di vita, però a lungo termine è anche, diciamo, poco sostenibile. Cioè, nel senso che è un po' stressante. Tu di dove sei in Italia? Io sono di Napoli. Quindi dici, ma meglio Shanghai o meglio Napoli? Vorresti tornare? No, non si può fare un paragone, però posso dire che vorrei rientrare in Italia sicuramente, almeno in Europa. Dopo 9 anni. Ma che cosa, cosa ti affascina della Cina? Cosa ti ha affascinato 9 anni fa andare, oppure era una necessità? No, inizialmente sono venuto per studio, con una borsa di studio, avevo studiato la lingua cinese, la cultura cinese, che è assolutamente affascinante da studiare, da analizzare. E poi sono rimasto per motivi di lavoro. E come ci ascolti da lì? In live streaming? Con l'app? Vi ascolto in podcast, mi dà la possibilità poi di ascoltarvi quando sono in metropolitana o per strada. Fantastico, cioè immaginate, gente, noi magari c'è gente che sta in metropolitana a Shanghai e ci ascolta in diretta, questo è il potere. In metropolitana a spingere altre migliaia di cinesi che vogliono... Vi faccio ascoltare, digli così, debosciati, andate avanti, debosciati, e spingi, muovetevi. Diego, che ti devo dire? Ti mandiamo un grande abbraccio, ma è affascinantissima la questione della capoeira. Cosa pensano dell'Italia lì a Shanghai? Dici solo questo. Beh, o dai un messaggio tu agli italiani. Beh, l'Italia è famosa qui per il calcio, la moda e per la pasta, neanche il mangiare in generale, ma la pasta. La pasta. E tu che dici agli italiani? Che vuoi dire da lì? Agli italiani che sono in Italia vorrei dire, consiglio a tutti di fare un'esperienza all'estero di qualche anno, perché apre veramente un po' la mente e dà una visione più oggettiva del nostro paese. Concordo, Diego, un grande abbraccio con te, saluto Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni e Lorenzo Nespoli in redazione, insieme al nostro alpino Peter Bescapè. Noi settimana prossima ci siamo, fino al 24, quindi a lunedì.